La zanzara. Con Luca Telese. Eccoci, iniziamo a ronzare un altro pomeriggio di passione agostana, un altro pomeriggio a discutere di identità nazionale, perché sotto l'ombrellone non ci facciamo mancare nulla. Lo spunto, come sempre, ce l'ho da lui, il senatore da Ponte di Legno, con le sue esternazioni, con la sua guerra all'inno e con la sua campagna per i dialetti. Che cosa ne pensate? Che cosa ne dite? Vi sentite italiani? E quanto alla zanzara? Subito dopo i titoli di Studio Aperto. Rave killer, in esclusiva Studio Aperto le immagini del raduno illegale in Campania ha costato la vita ad un 26enne di origini israeliane. Avevamo comprato molta droga, raccontano gli amici, una festa dello sballo con musica, alcol e molti malori. Identico scenario nel Salento, dove è morta una ragazza di 23 anni. 9 città in allarme per il caldo record. Oggi il termometro ha sfiorato i 40 gradi. La Protezione Civile segnala per domani temperature in rialzo a Milano, Roma, Bolzano e Bologna. L'afa durerà fino a venerdì. Non siamo contro l'inno di Mameli, frena Bossi dopo la bufera e le critiche del PDL, ma va al contrattacco su un altro tema caro alla Lega, la battaglia annuncia sui salari. Chiediamo di aumentare gli stipendi e legarli su base territoriale, al costo della vita. Michael Jackson senza pace, i tabloidi inglesi lanciano l'ultimo mistero. La madre si sarebbe presa la bara e l'avrebbe nascosta in una cella frigorifera segreta, mettendo il corpo del figlio sotto ghiaccio per preservarlo. Millantano vacanze esotiche, mete da sogno, crociere super lusso. E magari sono andati dai parenti, o peggio, sono rimasti barricati in casa. Si allarga il popolo dei simulatori di viaggio. Stando alle statistiche, almeno 1 milione di italiani quest'anno le ferie le ha fatte virtuali. Invece cresce il numero di stranieri che il viaggio in Italia lo fanno solo per giocare al Superenalotto. Siamo stati al confine con la Svizzera, arrivano a frotte per dare l'assalto al Super Jackpot. In palio stasera 135,9 milioni di euro. La regina d'agosto, Elisabetta Gregoracci, lo dice uno speciale giuria di esperti d'immagine, dallo stilista al chirurgo plastico, sul settimanale Gente. Una stagione d'oro per la signora Briatore, in TV anche stasera su Italia 1, nella seconda puntata di Celebrity Bisturi. Domenica d'agosto, che caldo fa, la spiaggia un giro arrosto non servirà, bere una bibita se in fondo all'anima sogno l'oceano splash. Ondeggiano le palme da tappero. Eccoci qui con Bobby Solo, il noto rocker della Bassa Padana. E sarà il caldo d'agosto, sarà la voglia di scaldare i cuori leghisti. Da Ponte Legno, Umberto Bossi, il senatore, ha annunciato la sua proposta di legge, i dialetti a scuola. E lì al suo fianco c'era l'autore della proposta, il ministro Calderoli, in braghette corte, polo verde, una coloritura che sembrava veramente verniciato a caldo e cotto nel forno. E allora sentiamo subito cosa dice Bossi sul DDL dialetti. Sapete cos'è questo? È il testo di legge della legge sul dialetto, cioè il nostro dialetto nelle nostre scuole. È ora di finirla, di cancellare tutte le nostre cose, la nostra storia, le nostre stop. È già pronto. Ma la cosa che a noi interessa di più è questo attacco su larga scala, questa battaglia culturale, nuovo il Kulturkampf, dedicato all'inno di Mameli. Nessuno lo conosce, invece, dice lui, il va pensiero, tutti lo canti. Io infatti per strada qua, mentre entravo, ho sentito persone che intonavano il va pensiero. Ricordate, già l'anno scorso, con uno dei suoi gestolini, il leader Umberto ha liquidato Mameli. Uno stato truffatino come lo stato italiano. Lei certo che noi, l'inno nazionale dice che tutti noi dobbiamo essere schiavi di Roma. Schiavi di Roma. Ma poi, nella stessa giornata, perché siamo sempre ad agosto, perché le cose funzionano così, il senatore ha un po' ritrattato, perché quello che più gli importa, dice adesso, sono gli stipendi, le gabbie salariali, insomma, è colpa dei giornali. Sentite cosa ha detto a Sky. Purtroppo è d'estate, la carta stampata non vende i giornali, quindi fa qualche forzatura. E quella lì la forzatura perché io ho detto che ero commosso del fatto che i padani conoscessero benissimo l'inno della Padania, va pensiero, punto. Per non parlare di gabbia di aumento dei salari, hanno tirato fuori la faccenda, si sono inventati l'inno. Diciamo che noi siamo contro l'inno Fratelli d'Italia, no? E vedi, ce lo siamo inventato noi, siamo noi giornalisti perfidi, da due giorni avete sognato, eppure c'è stato qualcuno che lì noi Mamei l'ha fatto suo per corteggiare una donna. Ricordate quel terrone di Troisi di Non ci resta che piangere? E quella dei fratelli? Qual è quella dei fratelli? Quella che erano fratelli. Ah, quella dei fratelli, sì, avete ragione. L'ho scritto in un momento così, no, che mi piaceva la fratellanza, così. Fa così. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, dell'elmocipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia si rivela. Mameli! Oh Mameli! Fantastico, non ci resta che piangere, fantastico assai. Allora il TG1 lancia dei sondaggi, ma meglio Verdi scegliete voi, e secondo me in questo cade nella trappola del senatore, ma noi sentiamo che cosa dice il TG1. D'Italia, l'Italia se desta. Per l'inno di Mamele, logico. Perché? Perché siamo italiani. E tanta gente è morta perché? Per fare l'Italia unita. Sarà pure antiquato nella musica e retorico nel testo, ma l'inno di Mameli sembra ancora il più amato dagli italiani, nonostante la concorrenza del Va pensiero di Verdi. Va pensiero sulla livola va. Senti, e preferisci l'inno di Mameli o Giuseppe Verdi? L'inno di Mameli. Sì, perché? Perché è più carico. Perché è più carico, insomma, il gioco del TG1, che cosa preferite? Noi a Radio 24, alla Zanzara, in questo fortino di ronzanti esseri rispettosi, siamo oggi sparati per gli nuovi Mameli. Chiamateci se avete altre opinioni, 824-0024, per dirci qual è l'inno che vi batte dentro al cuore. Allora, ieri all'Aquila è andato Robertone, Benigni, la passerella di VIP e politici che vanno ai terremotati si allunga, qualcuno porta conforto, qualcuno esibisce numerini, il premio Oscar, come sempre, ha regalato un suo show tra il serio e il faceto, non poteva mancare qualche stoccata al cavaliere. Benvenuto, vero, venerdì perdone, ieri Berlusconi, oggi io, i tre più grandi comici d'Italia, tutti, volevo dire... Verdone, Benigni e Berlusconi dai terremotati, e su Berlusconi, Benigni che non fa più battute sulla sinistra, ma perché? Ma come mai? Svegliati Roberto, insomma, sul cavaliere ha fatto altre battute. Non vi preoccupate, non sono qua per parlare male di Berlusconi, per carità, io dico come dicono gli americani, giusto o sbagliato che sia, è il mio paese, no? E così con Berlusconi, sbagliato o sbagliato che sia, è il mio presidente. Sbagliato o sbagliato, non giusto o sbagliato, una variazio benignesca, e quando si fa serio addirittura si trasforma in capopopolo. Salve ragazzi, io vengo qui, non so voi dove andate, in agosto sono qua, quindi sei andato in agosto qui tirato. Qui all'Aquila, anche per gli aiuti che voi dovete avere, tutto ciò che deve essere fatto per voi, se non vi viene dato, non vi dimenticate di urlarlo continuamente, come a pieno evangelo di urla e di grini di richiesta al Signore quando c'è bisogno d'aiuto, e che vengano ascoltati. Non vi stancate mai di dire, di urlare quando qualche diciamo così ingiustizia viene fatta o ritardo. No, questo sembra una banalità, ma sono importanti. Urlate, dice il comico, ma qua in questo paese, con tutti questi comici che vogliono fare i politici, e poi uno si lamenta che i politici tendono a fare i comici, vabbè, sconfinamento e scambio di mestieri, ma lui, B, Non aveva detto che le sue ferie doveva passare lì, perché l'incontro ieri fra il piccolo diavolo e il grande premier non c'è stato, perché Berlusconi invece è ancora in vacanza altrove. E l'aveva detto anche agli operai, che erano lì quando il presidente Obama girava in maniche e camicia per la città distrutta, con Bertolaso che faceva da interprete. Beh, lui l'aveva detto, in agosto sarà qui. Salve ragazzi, io vengo qui, non so voi dove andate, in agosto sono qua. Quindi sei andato in agosto qui here. L'Aquila ti aspetta, Silvio, la caserma di Coppito, ti hanno preparato la branda, è lì che ti aspetta. E passiamo all'altro grande tema dell'estate, i protestanti, gli innalzanti, coloro che sfidano il cielo per difendere il loro posto di lavoro, dall'INSE ai suoi emuli. A Roma sette guardie giurate occupano il terzo anello del Colosseo, qualcuno sta male, qualcuno patisce il caldo. Oggi nella sala della Razzo in Campidoglio l'incontro fra l'assessore al commercio del Comune di Roma, Davide Bordoni, e rappresentanti delle guardie giurate, che fra l'altro noi in qualche modo conosciamo perché hanno lavorato anche per i palazzi dell'informazione, e quindi le tifiamo queste guardie, le tifiamo. Sentite il servizio del TG5. L'incontro in Campidoglio è iniziato in tarda mattinata. Da una parte l'assessore alle attività produttive del Comune di Roma, dall'altra i rappresentanti sindacali delle guardie giurate che da venerdì pomeriggio manifestano sul Colosseo contro la modifica contrattuale che mette a rischio il loro posto fisso. Si tratta del primo tentativo di dialogo con le istituzioni, salutato con entusiasmo dai vigilantes, che però auspicano l'apertura di un tavolo a Palazzo Chigi. Nell'attesa, i sette di loro, che sono arrampicati sul terzo anello del Colosseo, a 50 metri d'altezza, hanno promesso di tenere duro, affiancati da un centinaio di colleghi che da terra si alternano per sostenerli psicologicamente, ma soprattutto con la fornitura di viveri e acqua. Il 31 luglio l'ente pubblico per il quale lavoravano è stato acquisito da una società privata. Tutti i dipendenti dell'ex urbe avrebbero dovuto licenziarsi, perdendo così lo status di dipendente pubblico e i vantaggi economici accumulati negli anni, per essere poi riassunti dalla nuova società. In 300 però si sono rifiutati, dando inizio alla protesta. Ieri uno dei rappresentanti dei lavoratori della INSE, la fabbrica milanese che stava per chiudere e i cui operai si sono asserragliati su una gru in segno di protesta, si è presentato al Colosseo per solidarietà. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le canne, densi tu du vali, a se mostrani, e a netta na punto, cotelo agu, e a monta la zeugere sto di. A proposito di dialetti, non abbiamo bisogno di studiarlo a scuola per riconoscere, ed è uno dei nostri inni, Creuza de Ma. Si pronuncia così, presidente Burlando? Creuza. Creuza, vede che dobbiamo... Allora, siamo rimasti stupiti, governatore, del fatto che lei ha sostenuto o rilanciato o rivendicato come propria l'idea dei dialetti nelle scuole, è vero? Ma io, come ho detto anche alla giornalista della sera, un patto genovese in famiglia da piccolo, l'ho parlato per tutta la vita con i miei genitori, l'ho parlato in porto con il console dei Camali che è mancato pochi mesi fa, è la lingua ufficiale del porto di Genova. A me l'idea che si perda il dialetto genovese, meglio la lingua come diciamo noi, sembra un dispiacere, troverei... brutto che non si potesse più capire una commedia di Gordio, semplicemente una canzone di André che abbiamo appena sentito. E quindi un po' di mesi fa, prima che ne parlasse Bossi, parlando con un'associazione genovese, Accompagna, che si occupa di cultura e di storia della nostra lingua, del nostro dialetto, della nostra regione, abbiamo detto che sarebbe bello cominciare intanto un po' di attività di formazione. E poi, se ci fosse l'accordo del governo, del Ministero della Pubblica Istruzione, anche insegnarlo, perché tutti noi vediamo con i nostri figli che ormai questa cosa si perde. Ma non si possono fare questi corsi, diciamo, fuori dal monte ore scolastico? Cioè, se io devo fare nuoto, vado in piscina, sì, e sì, la scuola non me la garantisce. Perché no, dove sta scritto fare... che il dialetto che debba essere insegnato proprio nelle scuole? Fare dentro o fuori, si potrebbe anche, per esempio, ormai ci sono i crediti, si potrebbe considerarlo un metodo attraverso cui si può avere un credito scolastico alle superiori, Si possono fare in diversi modi, ecco. Quello che mi pare importante capire è che non è che il dialetto a scuola vuol dire il lombardo, ecco. Il lombardo, il milanese è uno dei tanti dialetti, dei tanti idiomi, tante lingue. Quindi rischia di perdere un patrimonio complessivo, il genovese, il napoletano, quanti altri dialetti, lingue stanno perdendo. E francamente mi pare importante non perdere una tradizione, una cultura. Poi si può discutere, si può puntare sulla scuola, si può fare anche al di fuori. Certo, la cosa più semplice è farlo a scuola, per evidenti motivi, perché è a quell'età che si apprende, è a quell'età che si ha facilità. Francamente non mi pare neanche che si debba contrapporre all'inglese. I bambini possono imparare diverse lingue, diversi dialetti. Certo. Senta, che sono in alternativa, ecco. Senta Presidente, le chiedo un'altra cosa. Lei invece a bandiera come sta? Le va bene il tricolore? Ne ha un'altra? La bandiera del suo comune la mette prima, dopo? A me pare che la bandiera e l'inno di questo paese ci sono già, non c'è bisogno di trovarne altre. Io considero queste uscite di Bossi un elemento di difficoltà della sua coalizione politica. Senta, adesso vorremmo farle un test e lei ci deve cantare quattro strofe a piacimento dell'inno di Mameli. Fratelli d'Italia, Italia tedesca, dell'Armodicipite, scintra a testa. Ammazza, che... ma l'intonazione non ha rischiato? Come dire, non sono ovviamente intonato. Così sembra, no, provi, l'ha cantato Troisi, lo può cantare pure lei. No, non vuole rischiare. Posso dire un po' di strofe, ma se che penso, insomma. Va bene. Ma se che penso, mi vedo ma. E che vuol dire? Questo è l'inno di Genova, è la canzone degli emigranti genovesi che in America Latina sentiva nostalgia di Genova e allora hanno fatto questo inno. Se che penso? Ma se ci penso, allora io vedo il mare. Oh, che bello. Questo è un altro bell'inno da mettere in nostro. È un inno bellissimo, è che i genovesi conoscono tutti e cantano e si commuovono ed è molto bello sentirlo cantare dai genovesi che sono in giro per il mondo. Bene, grazie al presidente Burlando. Ma non c'è il rischio che questa Lega alla fine conquisti un'egemonia culturale? Perché alla fine sono loro a dettare l'agenda. Se si recuperano queste identità, io penso che l'Italia sia più forte, non più debole. Le altre cose chiaramente sono ancora diverse, no? L'inno di Mameli, tra l'altro, è genovese, l'inno di Mameli, insomma. 1847 Genova ha segnato il risorgimento. E se difendiamo la nostra storia, l'identità, la cultura, che l'Italia è più forte. E quando non difendiamo invece un'identità, una storia, una cultura nazionale, che cose come quelle della Lega, quelle altre, insomma, il tricolore, l'inno di Mameli, allora quelle diventano più forti perché noi siamo più deboli. Va bene, grazie mille e a risentirci a presto. Riccardo da Como, che cosa ha da dirci? Pronto, buonasera. Sì. Io volevo intervenire sulle interventi di Bossi. Solo se prima ci canta, aspetti Riccardo, la regola di oggi ci deve cantare qualche strofa a piacere dell'inno di Mameli. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'Elmo di Scipio se cinta la testa. Va bene? Bella, una versione un po' cantautoriale, è un po' come l'inno fatto da Guccini una sera che è ubriaco. Bene, ci dica. No, volevo dire che secondo me gli interventi di Bossi sono per nascondere un po' le mancanze del governo in questo periodo di crisi, visto che l'agenda cioè cambia l'opinione cerca di spingere l'opinione pubblica e i pensieri delle persone su queste cose, invece di andare a discutere dei problemi seri. Ci sono lavoratori che perdono i posti di lavoro tutti i giorni, ci sono persone in cassa integrazione. I nostri ministri chiacchierano sul fatto se cambiare o no la bandiera o se modificare l'inno. Credo una bella teoria, crisi, Riccardo. In qualsiasi altro paese del mondo non potrebbe succedere. Sa che quasi quasi queste cose. Quasi quasi mi ha convinto, ma arriva un SMS, grazie a Riccardo, andiamo a sentire Walter da Roma. Mi arriva un SMS, a questo punto propongo Viva l'Italia dei Gregori come inno nazionale o Italia di Reitano, che ne dice dottor Telese? Vabbè, ma Reitano è un mito, spero che la nostra regia lo trovi subito. Italia, Italia, l'urlo dell'indimenticabile Mino, che è scomparso quest'anno e veramente ci ha lasciato senza bandiera. Bravo Giuliano da Reggio Emilia, sentiamo Walter da Roma. Eccomi qua. Allora. Pronto? Prego. Sono Walter, sì, ho chiamato per dirvi che a Roma... fino a qualche anno fa si stampava un giornale che si chiamava Rugantino, era scritto in dialetto romano. Come no, una testata famosa, prestigiosa. Lo leggeva per anni, l'ha letto. Poi ultimamente lo stampava una piccola tipografia, ma economicamente ha dovuto un po' sospendere, l'ha messo su internet. Quindi certo, ho capito. C'è sempre questo foglio che parla romano. È chiaro che uno va a scuola per imparare l'italiano. Ha ragione. Se andiamo tutti a imparare un dialetto, nel Lazio ci saranno già dei dialetti nei paesi limitrofi, ognuno già ha un suo dialetto, che facciamo poi? Italiano non ci capiamo più. È quello che penso anch'io. Adesso anche lei deve superare il test, due versi e l'inno di Mameli intonati, non faccia come Burlando. Che devo cantare? L'inno, il nostro inno. Questo lo cantavo quando facevo le gare, veramente. E allora vada, provi. Lo cantavo, fratello, due versi. L'Italia se destra. Le parole. Prendiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Vada, siamo pronti alla morte, l'Italia. Effettivamente sì. Questo è un inno dei tempi di guerra. Andiamo a analizzare le parole. La musica è bella, le parole si ricorda quando nell'anni, 50 anni fa, io ho 77 anni, quindi 50 anche anni più fa di 50 anni. Era attuale, perché uno veniva dalla guerra, tutti i problemi, oggi certo. Bisognerebbe e tutti gli inni sono un po' così, però l'inno è sempre grazie. Quello. Allora, grazie al nostro ascoltatore romano. Walter, sentiamo che cosa... Allora, sentiamo una versione rock dell'inno I Mameli. Forza, che ce l'abbiamo. Sentiamo Marco da Lecco, che cosa ha da dirci? Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Volevo dire che tra l'inno di Mameli e il Va Pensiero non c'è assolutamente paragone. Ma l'ha sentita la versione rock? 100 miliardi di volte più bello Va Pensiero. Cioè, musicalmente non c'è neanche da paragonare. Cioè, la musica di Giuseppe Verdi è intouchable, non si tocca, prima cosa. Secondo, per dirlo in dialetto padano. Ecco, esatto, in dialetto padano. Seconda cosa, il testo, anche il contesto in cui è stato scritto e cantato quel brano, no? Che è ripreso anche da Zucchero, oltretutto. Cioè, fa sì che tra il Va Pensiero e l'inno di Mameli c'è un abisso. È come paragonare. Allora, ci canti due versi del Va Pensiero. I Beatles con Arisa, tanto per essere chiari. Arisa è molto forte, ci canti due versi del... Ci convinca lei stasera. Va Pensiero sulla Lidorate, va a posarti sui clivi e sui colli. Sono molto stonato. È una versione molto rock anche lei, i tempi sono più dilatati, va bene. Grazie Marco di questa testimonianza, sentiamo Fabio da Vicenza. Eccoci qua. Eccoci. Sono Fabio. Fabio, sì, buonasera. Intanto grazie per avermi ospitato, sono contento di parlare con lei anche, Telese. Grazie. La apprezzo abbastanza di più del suo collega, comunque queste sono questioni mie diciamo. Sì, io volevo intervenire sulla questione di Bossi e sul trattare dei dialetti e del cambiare l'inno. Intanto Bossi forse farebbe bene a sapere che il Va Pensiero è stato scritto da Verdi proprio con finalità risorgimentali italiane, non padane, italiane, per calco la questione, perché forse Bossi non lo sa, perché ha studiato poco, che Verdi era un fortissimo sostenitore del risorgimento italiano, ripeto italiano, e scriveva in italiano, non scriveva in lombardo. Uno, due, già, è vero. Ci sono, ci sono due bellissimi altri inni possibili. Uno si chiama Povera Patria ed è di Battiato, e forse farebbe bene ad ascoltare le parole Bossi. E l'altro è l'altra canzone bellissima, stupenda, che indica veramente un forte affetto per l'Italia, che è quella fatta da Ligabue, altra canzone che riprende tutto ciò che l'Italia potrebbe essere, invece non è, anche per gente come Bossi. Ah, accenni, allora via va pensiero e accenni lei questo Ligabue. Ligabue lo ricordo male, il testo lo ricordo male, mi ricordo molto meglio Povera Patria, insomma. Ah, quella però è difficile. La farei volentieri, va pensiero me lo ricordo. Va bene, allora due versi del va pensiero e ci lasciamo, vada. Molto bene, va pensiero sulla Lidorate, più o meno una roba del genere. Bene, ottimo. Allora la ringrazio perché lei non ha avuto paura di niente. TG3. Calano il PIL e i consumi degli italiani, anche alimentari, ma è triplicato in 7 anni l'acquisto di telefonini, borse in perdita. La crisi in America, Chicago in bancarotta, ferma per un giorno i servizi pubblici, economie locali al collasso, i nodi della riforma sanitaria. Tracce di cocaina sul 95% delle banconote che circolano negli Stati Uniti. Silvio Garattini al TG3, succede anche in Italia. Ritrovato al largo di Capoverde il cargo scomparso da settimane, l'equipaggio trasbordato su una nave russa, ma restano i misteri. Decine tra morti e dispersi in un incidente nella più grande centrale idroelettrica della Russia, rischio inquinamento ambientale. Terrore sulle urne in Afghanistan, a 3 giorni dalle elezioni, i talebani, taglieremo le dita a chi va a votare, le forze in campo. È stata l'ex moglie dello sposo ad appiccare per vendetta l'incendio che ha carbonizzato 43 persone ad una festa di matrimonio in Kuwait. Super Enalotto, in palio 136 milioni di euro, padre Rastelli, follia collettiva, e c'è chi fa debiti con gli usurai per tentare la sorte. Niente meno, i debiti per tentare la sorte. Comunque vada, noi questa sera vi daremo i numeri e sentiamo invece i titoli di Sky TG24. Bossi smorza le polemiche sull'inno, solo invenzioni, si pensi ai salari, dice. Afghanistan verso le urne, nuove minacce dai talebani, mutilazioni, a chi vota? Confcommercio certifica la crisi, giù PIL e consumi, ma è boom dei telefonini. Roma uccisa a Napoli, l'autopsia toglie ogni dubbio, è stata un'autopirata. Fuga di gas, settimo torinese, crolla una palazzina, morto un 69enne. Esplosione in una centrale elettrica russa e strage, 10 morti e decine di feriti. Arctic Sea, il cargo agganciato da un sottomarino russo, interrogato l'equipaggio. Super Enalotto, un sogno da 136 milioni a Modena, sistemone da 81 mila euro. Fulmine a Berlino, dopo il record, Bolt pensa già al futuro, voglio scendere a 9.4. Lady Ciccone fa festa a Portofino, pochi intimi al party per i 51 anni di Madonna. E rieccoci, allora torniamo in studio, discutiamo di tantissime cose, ma prima, mentre captavamo i titoli di Studio Aperto, ne abbiamo sentita una fantastica. Ci sono i simulatori delle vacanze, l'ultimo simbolo della patacca italiana, l'ultima incarnazione della sfiga che non ci vuole stare. Allora sentiamo com'è questa storia. Già, i vicini. Perché non mi spieghi qual è il problema? Niente, paranoia, non mi va di parlarne. Basta qualche lampada e una buona connessione a internet. Con l'attrezzatura adatta, i simulatori di vacanze possono restare chiusi in casa settimane, poi tornano in ufficio abbronzati, pronti a descrivere avventure che non hanno mai vissuto e paesaggi esotici visitati solo sul web. Secondo l'ultimo sondaggio estivo, in Italia sarebbero almeno 500.000 i finti turisti. No, questa non è casa nostra, questa è un'isola dei Caraibi! C'è chi racconta viaggi coast to coast e invece ha fatto villeggiatura low cost. Altri recitano a memoria le tappe dell'itinerario quando hanno rimediato la tintarella alla piscina comunale. Ma a soffrire di più sarebbero i millantatori totali. Mi stai proponendo di passare l'estate come Nosferatu? Le cosiddette talpe non abbandonano mai il loro divano. Si nascondono, fanno la spesa all'alba, scaricano film e si informano sulla loro meta virtuale. Sempre meglio che confessare a parenti e amici di non potersi permettere le ferie. In base all'ultima ricerca, i falsi viaggiatori sarebbero 70.000 a Milano, 45.000 a Roma, a Torino 30.000 e a Bologna 27.000. Insomma, le piante rinsecchite sul balcone del vicino potrebbero essere solo una finzione scenica. Eccoci qua, allora, è un'altra storia italiana. Abbiamo al telefono Francesco Merlo, inviato di Repubblica. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera. Allora, come va questa storia dell'inno? Che cosa ne pensa un catanese che vive a Parigi e scrive per un quotidiano romano? Ma penso che Bossi ha queste uscite estive, no? Che sono tipiche dell'estate, perché l'estate è la stagione nella quale vengono fuori i pensieri cattivi, è la stagione delle zanzare che ci pungono, la stagione in cui aumenta il numero dei delitti e in cui aumentano anche le fesserie. E quindi l'estate, che ha anche i suoi libri e le sue barzellette, l'appuntamento l'estate italiana con lo sciocchezzaio di Testa di Legno, Ponte di Legno, dove Bossi va in canottiera a raccontare queste cose e quindi parla dell'inno. Naturalmente fa demagogia facile, perché è vero che l'inno italiano è una marcetta che celebra un imperialismo ingenuo contro l'Africa, è brutto, però insomma tutti gli inni sono così. La Marsigliese, che peraltro è sicuramente più bello musicalmente, è un canto di battaglia, invoca il sangue puro che abbevera i nostri solchi, insomma siamo dentro sempre. Sono le tracce della storia. Le tracce della storia, della violenza, sulla quale appunto si fondono i confini, eccetera. Ecco, gli inni vanno cambiati? No, gli inni ci sono. Naturalmente in Italia c'è un'assenza costituzionale di retorica nei confronti della patria, nei confronti dell'inno. Questo tutto sommato non è male, nel senso che ci piace il mare aperto, non ci piacciono i sentieri interrotti, e quindi si può discutere sull'inno, ci si può non riconoscere nelle bandiere, negli inni, e però appunto perché si sta senza bandiere, si sta senza inni, ma certamente non per sostituire un inno con un altro che magari celebri la rivoluzione del ballatoio o il nativismo. Quindi lei non sostituirebbe l'inno di Mameli col va pensiero, non è una gara fra... Il va pensiero poi è ridicolo, cioè se Verdi potesse affacciarsi un attimo dalla tomba, Verdi che è un'icona del nostro risorgimento, uno degli artefici. Viva Verdi, Ettore Emanuele, poi il Nabucco, quello che significa, eccetera. Se Verdi sapesse che la sua musica, che la musica che ha fatto l'Unità d'Italia, viene utilizzata, addirittura celebrata nei cori da osteria come musica che deve sfasciare l'Italia, credo che Verdi denuncerebbe Bossi per vilipendio, per furto o per qualche altra cosa di questo genere. Poi non lo so, cioè ci sono anche delle altre cose da dire su questo Bossi, no? Che devo dire la verità, nell'Italia di oggi c'è un leader come Bossi, è malato, è un uomo visibilmente colpito da un male fisico. Eppure è venerato come un dio pagano dalla sua gente ed è come se fosse il corpo dello sciamano, no? Ora è vero che noi italiani davanti alla malattia tendiamo ad assolvere, come dire, di tutti i peccati, l'insania dell'uomo sano, no? Cioè ciò che aveva fatto di male prima tendiamo ad assolverlo, perché i colpi che... come se i colpi polemici tra noi e lui fossero responsabili di questa malaugurata storpiatura del fisico che c'è in Bossi. Ecco, questo è un errore, una cosa sbagliatissima. Nessuna malattia del corpo guarisce o assolve le malattie dell'anima. E quindi il razzismo, il plebeismo, la violenza, la volgarità del linguaggio contro i neri, i meridionali, gli omosessuali, i musulmani, e poi gli egoismi, la voglia di non pagare le tasse spacciata per ideale, tutte queste porcherie, compreso naturalmente quella di sfasciare l'Italia a partire dagli inni e dalle bandiere, sono delle cose che non si devono perdonare perché lui è malato. Cioè, sono delle stranezze italiane, non esistono altri leader così malconciati e così venerati nei ad Abbiate Grasso piuttosto che nella piazza di Vigevano, no? Un momento, la fermo. E nel suo libro Fac Italia c'è una pagina molto importante dedicata ai funerali di Manzoni come evento fondante, almeno per le classi dirigenti dell'Unità d'Italia. Perché? Perché il Manzoni, che è un uomo che mette insieme il cattolicesimo liberale con l'amor di patria, e lo mette insieme in un momento in cui la Chiesa invece era la Chiesa che dominava Roma, perché c'era il Papa Re. Quindi Manzoni è stato un eroe laico, il primo eroe laico della storia d'Italia. Ed è lì insieme a Verdi, Vittorio Emanuele, eccetera, tra le icone importantissime del Risorgimento. Il funerale di Manzoni è un funerale di popolo, e al funerale di Manzoni viene cantato il Requiem di Verdi. Quindi non ce ne va pensiero. Sentiamo Maurizio da Massa, nel frattempo cerchiamo al telefono Giampaolo Gobbo, uno dei sindaci simbolo della Lega. Merlo, sentiamo anche con lei questo ascoltatore. Sì, sì. Maurizio da Massa Carrara. Sì, salve. Pronto, vada. Niente, io dico che questa è la solita polemica d'agosto, e il punto fondamentale probabilmente sono le elezioni regionali e riuscire a vincere o a perdere il Veneto per la Lega contro il PDL l'anno prossimo. Sul difendere i dialetti insegnandoli a scuola mi sembra una cosa assolutamente assurda, perché se per insegnarlo a scuola bisognerà codificarlo, ma codificare un dialetto significa ucciderlo, perché il dialetto per definizione è vivo, è quello è una che bella... il popolo certo. Parla, il popolo cambia, se no ci sarà l'Accademia della Crusca Genovese, non lo so, e si impedirà di cambiare, di inventare nuove espressioni. Qui è interessante, giro subito questa provocazione che è chiarissima al sindaco di Treviso, Giampaolo Gobbo, buonasera. Sì, buonasera a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Allora, voi a Treviso, lei e il suo vice sindaco Gentilini, siete un po' gli uomini simbolo della Lega, ma che cosa ci dice su questa storia dei dialetti? Lei li vuole veramente insegnati nelle scuole? Intanto per noi è una lingua con varie declinazioni locali, ma è una lingua perché la Serenissima Repubblica, che è durata praticamente 10 secoli, moderno Stato occidentale molto aperto e che credo primo Stato occidentale, aveva la lingua, aveva il popolo veneto, e quindi credo che queste siano delle logiche sulle quali noi crediamo. Lei si sente prima veneto o prima italiano? Ma sono senz'altro veneto, l'Italia viene molto dopo, anzi credo che l'Italia è lo Stato in cui vivo, ma la mia patria, la mia nazione è il Veneto certamente. Allora sentiamo un attimo, avevamo in linea Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, ecco, cosa pensa di un amministratore che con tanta risolutezza dice io sono prima veneto che italiano, Merlo? Ma dice una banalità, perché è vero, lui è veneto, ma è veneto proprio perché è italiano, cioè non esiste un veneto che non è italiano, cioè lui è veneto e prima di essere veneto, non so dove è nato, è trevisano, trevigiano, così come altri sono romani, altri sono di Casalpusterlengo, di Parma, cioè, quindi uno è nato, prima ancora è nato, non so, in via Ventimiglia piuttosto che in via Vittorio Emanuele, quindi voglio dire, ed è questo proprio perché è italiano, perché fa parte dell'Italia. Dopodiché i dialetti esistono delle discipline, dei saperi specializzati che studiano i dialetti, le feste popolari, eccetera. Il problema è che la Lega propone di sottoporre gli insegnanti a degli esami di dialetto, ma lì non si capisce che rapporto c'è fra il latino, il greco e il dialetto, cioè non si capisce perché uno che insegna matematica lo deve conoscere il dialetto lombardo, cioè qual è il rapporto tra la matematica e il dialetto lombardo, oppure forse bisognerebbe mandare in giro le ronde e dare alle ronde il compito di scovare, non lo so, uno che in Lombardia studia Dante, che invece... La fermo un attimo, perché Gobbo sta dicendo qualcosa. Solo in Toscana. Sentiamo, beh, Gobbo, intanto, prego. Intanto, signore, lei sta prendendo in giro e cerca di prendermi in giro. Io non sarei così risoluto come lei, perché io credo che prima di tutto ma ciascuno è quello che io sono risoluto e lei no, che vuol fare? No, ma guardi, sì, ma lei ma adesso lei parla perché di non risponde onde, del merito, lasci stare la mia risolutezza. Mi scusi, mi spiego qual è sentiamo il rapporto tra il latino e il dialetto lombardo. Uno che insegna latino perché deve sapere il dialetto lombardo, mi spieghi questo? Qual è il rapporto fra le stelle, l'astrologia e il dialetto lombardo, la fisica, la chimica? Sentiamo Gobbo, vada Gobbo. Signore, sì. Allora noi abbiamo subito una realtà molto importante. Allora intanto l'articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto, fatto nel 1971 quando non c'era la Lega, si parla il popolo veneto si autogoverna secondo uso, costume, storia e tradizione. Questo è l'articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto fatto nel 1971. Per quanto riguarda poi la lingua veneta e ovviamente anche gli altri idiomi locali, perché il primo rapporto, che oramai certamente forse è annacquato, ma quello che noi avevamo è che i nostri ragazzi, i nostri bambini, con già alle elementari, si trovavano di fronte insegnanti del meridione che, poveri loro e poveri i nostri bambini, non sapevano nemmeno interfacciarsi fra loro. Perché ma questi sono degli insegnanti ignoranti, non sono degli insegnanti del meridione. Cioè, ci saranno anche dei veneti che non sono bravi. Ma mi permetta anche lei, scusi, se una persona parla in italiano e il bambino che lui tira su parla in veneto o parla in dialetto, come giustamente si dice, non riesce a capirsi con questo insegnante. Per cui io credo che al di là dell'esame... Guardi, la devo fermare un attimo perché abbiamo la borsa, ma subito dopo voglio tornare su questo punto che è molto importante. Allora Gobbo, gli avevamo tolto la parola ma stava finendo il suo pensiero, parlava della difficoltà, diceva lui, dei bambini veneti a capire alcuni professori meridionali, è così? Sì, certamente, ma questo parliamo comunque ancora degli anni magari del passato fino agli anni 80-85, ma al di là di questo è nel concetto di identità, una identità storica, come una logica, prima diceva appunto, io ho fatto il militare, quindi io ho giurato alla Repubblica Italiana, intesa come Stato formato da tanti altri popoli e da tanti altri Stati, con questo patrie, nazioni, con questo concetto che è il concetto degli Stati Uniti d'America, è il concetto della Svizzera, è il concetto dei Länder tedeschi. Sì, ma un americano non direbbe mai io non sono americano, scusi il gioco di parole. Ma io non ho detto che non sono italiano, io prima sono veneto perché la mia patria, come del resto Goffredo Parisi diceva proprio semplicemente questo, che quando c'era un riferimento alla patria, la sua patria era il Veneto. Io credo che comunque la nostra storia ce lo dice. Cioè, molto chiaro, aspetti, sentiamo Merlo su questo. Io, Merlo, le suggerirei questa cosa, cioè un professore che non si fa capire è un cattivo professore, perché si deve far capire in italiano. Quindi anche un Veneto che non si fa capire a Napoli è un cattivo professore. Cioè allora, un buon professore così si fa capire in italiano in qualunque parte d'Italia. Attraverso l'italiano. Io proverei, vediamo se mi capisce il sindaco. Allora, la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Adesso io posso dire ah, oppure posso dire ne, oppure posso dire quello che lui vuole, però quella, il teorema di Pitagora, rimane uguale. Quindi se io riesco a farvi capire, io che sono meridionale, riesco a farmi capire dal sindaco, perché mai gli insegnanti che ci hanno insegnato tra l'altro l'italiano a tutti, e sono tutti meridionali, perché gli insegnanti italiani sono tutti meridionali. Addirittura, molti. La gran parte. Perché al nord non ce n'è abbastanza, non so perché. Gobbo, perché al nord i professori non vogliono fare i professori? Perché semplicemente perché il Pontificio Italia, con il discorso ad esempio di quanti statali abbiamo noi, no? Lei sa quanti statali ci sono in questo Stato, per cui credo che sia anche questa una logica che è servita per poter portare avanti il discorso. Ma il discorso è anche un altro. Cioè adesso vuol dire che qualunque persona che vuole fare il professore cerca posto, no? No. Per i concorsi, perché mentre i curricula per gli anni scolastici normali sono, chiamiamoli, un po' quasi alla pari. Quando si arriva invece al diploma o alla laurea, i diplomi e le lauree, questo è uno studio che ha fatto un professore, il professor Mazzonetto, poco tempo fa, a livello appunto di tutto questo Stato, e c'è un 30-35% che ha il maggior voto e quindi l'accesso sia al diploma. Cioè, quindi i meridionali hanno voti più alti? Sì, senz'altro. C'è ma non lo dica. Un accesso ovviamente ai concorsi. Ma guardi, io per esempio, quando c'è stato l'ordine del giorno sui presidi, era perché non c'erano abbastanza domande di presidi del Nord. Non sto parlando di presidi, non sto parlando di quel caso di Vicenza assolutamente, ma perché è ovvio, se non ci sono presidi al Nord è perché verranno, non hanno potuto avere la possibilità di fare gli insegnanti. Quindi io credo che nei posti dello Stato, che poi siano stati voluti o meno dai veneti... Ma quindi secondo lei c'è un disegno anche, per tenere fuori... Diciamo anche una cosa, che essendo la logica del lavoro, diciamo così, indipendente, autonomo, di fabbrica o di liberi professionisti, ovviamente qua si accedeva prima magari anche a questo lavoro, ma per il discorso proprio dei concetti c'è un concetto molto profondo, che è quello che nei diplomi e nelle lauree c'è una valutazione maggiore al meridione che non al nord. Allora la fermo qui, la parola a Merlo e poi a lei la battuta conclusiva. Allora Merlo, ha sentito la tesi di Gobbo, sono i meridionali che prendono voti più alti e rubano i posti a quelli del nord. Ma guardi che i meridionali sono la maggior parte degli insegnanti sia al nord che al sud. Non è che quando varcano una certa frontiera diventano stupidi e quando invece insegnano sul Resegone diventano intelligenti. Sono bravi o non bravi, ce ne sono di bravi e di non bravi naturalmente come in tutte le professioni. Ce ne sono bravi e non bravi sia se stanno al nord sia se stanno al sud. Dopodiché gli studenti scelgono di studiare determinate cose in base agli sbocchi di lavoro che hanno, ed è il motivo per cui si dice che al nord si studia di più la matematica, per esempio, di quanto si studia al sud, mentre al sud si studiano le materie letterarie. Ma sono banalità, ci sono bibliografie enormi su questo, cioè non è che possiamo scoprire queste cose. E nulla tolgono alla grandezza degli insegnanti italiani che hanno fatto l'Unità d'Italia. Le hanno fatte proprio perché avevano questo continuo rapporto con lingue, dialetti, modi di pensare, modi di parlare diversi, e li mettevano insieme. Erano cioè delle persone che avevano la mente aperta, cioè che navigavano in mare aperto. Però dice il sindaco, Merlo, siccome è un posto fisso, i meridionali aspirano di più al posto fisso dei settentrionali. E questo può darsi che sia vero, cioè che i meridionali avevano nel posto dello Stato, sono i famosi servitori dello Stato, erano tutti meridionali. Cioè noi, i meridionali hanno servito lo Stato italiano, i prefetti, i magistrati, eccetera, in una maniera egregia. Però volevo dire sull'identità, che pur avendo un'identità, gli insegnanti italiani sono stati in grado di spostare questo, cioè di mettere insieme delle identità diverse, perché l'identità è un valore fino a quando non diventa violenza, cioè fino a quando non diventa chiusura, fino a quando non diventa una noce. Invece superare l'identità, mischiarsi, aprirsi al mondo, questa è la grandezza di oggi, no? Oggi ci sono i bianchi che diventano neri, ci sono i neri che diventano bianchi, c'è il presidente degli Stati Uniti d'America che è un meticcio, ci sono delle bellezze strepitose proprio sul concetto di identità che si allarga rimanendo se stessa. Invece il sindaco vuole l'identità del rione, l'identità del ballatoio, l'identità della cozza attaccata sullo scoglio. Cioè, lui vuol fare il sindaco facendo la cozza. Oddio, do la parola a Gobbo, che forse non amerà di sentirsi definire una cozza. Allora io credo che questo signore mi abbia offeso. Non prendo ovviamente in considerazione la cosa, la cozza è molto buona, la sua cozza, ma io credo che se gli insegnanti hanno fatto l'Unità d'Italia, io credo che anche questo opinionista stia facendo la disunità d'Italia, perché credo che le sue affermazioni vadano proprio in un contesto differente. Noi non siamo contro assolutamente alle varie identità, anzi noi crediamo che il federalismo sia la forza proprio perché mette assieme le diverse identità in una grande forza. Questo è il concetto del federalismo. Ma quello di definire una certa logica, il mondialismo, che pure esiste, ma allora dovrebbe anche essere anche in sussidiarietà. Bisognerebbe anche capire questo, perché qui solo ci sono determinati concetti e in altre parti no. Quindi noi non siamo assolutamente contro nessuno, ma noi siamo per essere quelli che i nostri avi, i nostri genitori ci hanno portato in senz'altro armonia con il resto di tutti i popoli. Bene. Ovviamente di popoli italiani. Finisce qui questa lunga parentesi, ma molto interessante. Arrivano tanti messaggi. Provate a dire cateto, ipotenusa in Valpusteria e poi vediamo. Verdi, gentile Luca, si ricordi, è Verdi fu indotto il librettista Solera, un anarchico, a comporre sia il Nabucco sia i Lombardi alla prima crociata, altra opera risorgimentale. Verdi aveva bisogno di cose a comporre per motivi economici. Grazie, Piero da Firenze, musico. Grazie a te per questa consulenza, saluto Merlo e Gobbo e sentiamo i vostri pareri. Giuseppe da Messina. Buonasera, dottore Telese. Buonasera. È un piacere parlare lei con lei. Lei è meridionale, non vorrà mica fare il professore, no? No, assolutamente, io faccio l'operaio. Io sono Perlino di Mameli. Oh, vai. Nonostante voto PDL, sono Perlino di Mameli. Allora le faccio sentire un frammento di un catanese dalla sua Sicilia che ha scritto un inno e qualcuno ha candidato a diventare indaco nazionale. Franco Battiato, Povera Patria. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Ecco qua, vada Giuseppe, sì, le piace io, Battiato? Bello, io l'ho incontrato meno di un mese fa proprio di presente quando ha fatto il concerto a Taormina. Ah, perché beh, allora siamo proprio un sodalizio criminale. Io lavoro a Taormina, in quell'hotel accanto al Teatro Greco, che praticamente l'ho usato come base per fare il concerto. Un concerto riuscitissimo, c'erano tantissime persone. Comunque volevo parlare delle battute solide di Benigni. Sul presidente Berlusconi e anche un po' sulle sue che ha detto, dice, l'Aquila l'aspetta. In effetti l'Aquila l'aspetta, il presidente Berlusconi è andato 20 volte all'Aquila, in Abruzzo, il giorno di Ferragosto era lì sul posto presente, e poi faccio presente sia a lei sia a Benigni che fra un mese gli abruzzesi, i poveracci terremotati, avranno una casa vera, cosa mai successa. Ma guardi, se ce l'avranno io sarò la persona più contenta del mondo, e io guardi, anche, non mi confonda con Benigni perché non ci siamo sentiti, io sono lì soltanto a dire che siccome doveva andare nella caserma e Coppito, perché le dice queste cose se poi non le fa? Se poi però questa cosa non la fa ma le case le dà, sono la persona più felice del mondo. La caserma di Coppito gli ha rimessa a nuovo, gli ha fatto un albergo a 5 stelle dove sono andati gli uomini più potenti della terra. Poi certo. Voglio dire che sta ricostruendo l'Abruzzo senza chiedermi un centesimo né a me né a tutti gli italiani, e questa è una cosa fondamentale. Purtroppo la sinistra è ridotta alle persone come Benigni, per carità, ottimo comico, ma politicamente sono solamente chiacchiere, i fatti sono quelli che si vedono. Ecco, guardi, noi andremo ai fatti e dopo, nell'ultima parte, sentiremo un giornalista che è stato anche molto toccato dal terremoto, un collega Paris del Centro, e sentiremo da lui, proprio per stare ai fatti, come stanno le cose. Comunque grazie Giuseppe, ci saluti Battiato se lo rincontra, e sentiamo ancora Salvatore da Caltanissetta. Sì, pronto? Ma chiamate tutti dal sud oggi? Ma cos'è, un complotto? Perché, chissà perché, intanto complimenti perché lei ha detto bene, ha detto Caltanissetta e non Caltanisetta come dicono i nostri amici del nord. Io volevo appunto intervenire su questa questione del dialetto, di questo proclama del senatore Bossi. Cioè, non so se, come dice qualcuno, Bossi è abituato a parlare al suo popolo, ma sarebbe meglio dire ai suoi seguaci così con la pancia, oppure come dice qualcun altro è che parlare di gabbie salariali, di inni e dialetti distoglie l'attenzione su quelli che sono i temi più importanti dell'attualità del nostro paese. Non so cosa sia. Certo è che minacciare di introdurre lo studio dei dialetti nelle scuole così con la forza delle leggi è un argomento che non può lasciarci indifferenti, almeno per un paio di ragioni, di cui la più evidente è che la legge esiste già da ben 10 anni, una legge che appunto permette di poter studiare i dialetti, la storia locale, e esiste dal 99, ed è il decreto. Però nessuno la applica. Come? Nessuno la applica. Forse al nord non la applicano, io la posso assicurare che in Sicilia sono certo che in Sicilia, perché io sono indocente, ahimè, visto che poco fa lei diceva che non vorrà mica fare il docente. Perché voleva il posto fisso? No, perché mi è sempre piaciuto fare l'insegnante, il docente. Ma infatti. Ecco, quindi poi le ragioni per cui al nord non si fa il docente magari va ricercato sul fatto che i docenti guadagnino pochissimo, questo è un altro discorso, però comunque io voglio concentrarmi su quella che è appunto la realtà dei fatti, che questa legge esiste già, come le dicevo, da 10 anni, che è il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e che permette proprio di utilizzare il 20% del curriculum del monte ore annuo proprio per realizzare dei progetti curriculari ed extracurriculari proprio sull'arricchimento dell'offerta formativa con la storia locale. Bene. Con le tradizioni locali, quindi chiaro, con lo studio del dialetto. La legge esiste già, queste notizie, i nostri ascoltatori ne sanno sempre una più del diavolo. 824 0024 per intervenire, 349 238 6666 per i vostri sms. Ricordo la nostra regia che un ascoltatore ci dice: come inno propongo Aida e Enrico Gaetano, che è un ottimo inno. E sentiamo Lucio Villari al telefono. Grazie, buonasera. Buonasera. Io sono rimasto incantato dal suo bel pezzo su R2 di Repubblica l'11 di questo mese. Volevo che ci raccontasse questa storia, come è nato il tricolore, uno storico. Io avrei voluto raccontarla in un altro contesto politico e culturale italiano, ma dovere spiegare questo problema della nascita e dell'importanza di questa bandiera nazionale a persone che, come questi della Lega, che non mi pare che abbiano l'attenzione e la sensibilità per capire le cose, mi sembra un po' tempo sprecato. Ad ogni modo, insomma. Non è mai sprecato il tempo quando si insegna qualcosa. Perché secondo lei è importante il valore simbolico della nostra bandiera? Ma intanto è una bandiera che ha più di 2 secoli di vita e che ha attraversato le vicende più importanti della storia nazionale italiana, insomma, quindi ha un valore simbolico e storico tra i più importanti rispetto anche ad altri simboli o altre bandiere di altri paesi europei, quindi ha una sua dignità storica, una sua rilevanza culturale, ha dei riferimenti precisi a eventi fondamentali. Certo, vita, la Repubblica Cispadana nasce come variazione del tricolore francese. Certamente. Il verde, fra l'altro, era il verde della Padania, no? Sì, è una bandiera poi padana, questi leghisti che si vantano di rappresentare le tradizioni padane non sanno che il tricolore è una bandiera padana. Perché il verde era il verde dei campi della Padania. Dei campi, dei prati, della Valpadana, eccetera. Quindi è una bandiera che nasce dal cuore della Valpadana. E poi fu portata in giro per l'Italia a costruire l'unità di questo paese dai settentrionali, questa è un'altra cosa, no? È la bandiera del risorgimento nazionale, insomma, se i simboli hanno un senso, se Pisacane. I nomi hanno un senso, il nome del tricolore, come il nome di una persona, ha un senso, corrisponde alla vita, alle tradizioni, alla crescita di questa stessa persona, e così la persona Italia ha avuto questo simbolo che la rappresenta, quindi non è quasi tutti no, ma la cosa che mi colpisce è che quasi tutti i patrioti più importanti erano settentrionali. Pronto? Sì, dicevo, quasi tutti i patrioti più importanti di quel periodo dell'unità d'Italia erano settentrionali. Sì, no? purtroppo la voce se ne va perché io sono in viaggio. Ah, ecco, no, le dicevo che quasi tutti i patrioti più importanti che lei ha citato nel suo articolo erano tutti settentrionali. Questa è un'altra ironia della sorte. Settentrionali, eccetera. Però i mille erano bergamaschi. Sì, sì, certamente. Ma quando poi sbarcarono in Sicilia con Garibaldi, la bandiera italiana diventò pure la bandiera della Sicilia. E quindi è una bandiera che ha unito gli italiani. Se qualche signore politico oggi vuole dividere questi italiani si sbaglia, perché quello che ha unito l'Italia è più forte di quello che può dividerlo. Quindi si illudono. Ma lei ne è convinto di questo? Io sono convinto, anche se qualche pubblicista o politologo o giornalista si diverte in questi mesi sui giornali a dubitare di questa cosa, perché l'unità d'Italia è stata messa alla prova tante volte e ha sempre resistito, non sarà quindi la Lega a poterlo mettere in discussione oggi. Qui siamo al Piave mormorava, non passa lo straniero. Come? Lei stava evocando Caporetto, l'impressione, no? Il Piave mormorava, la difesa dell'impressione. Ho capito, allora ci scusiamo, la ringraziamo e sentiamo Alessandro da Como. Alessandra da Como. Alessandra, sì, buonasera. Io volevo chiederle una cosa, un piacere, Terese. Sì. Lei dovrebbe chiamare Mike Buongiorno una delle prossime sere, perché sì, l'unità d'Italia a livello linguistico, ok, arriva da Dante piuttosto che da Manzoni, sciacquiamo i panni in Arno, però l'ha fatta Mike Buongiorno con le sue trasmissioni. Prima di lui si parlava solo dialetto in Italia, quindi vorrei proprio sapere se Mike Buongiorno sarebbe d'accordo oggi, dopo tutto il lavoraccio che ha fatto lui, tra l'altro italoamericano, se noi adesso ricominciassimo tutti quanti a parlare in dialetto. Questa è una bella provocazione. 824 0024 per le vostre opinioni, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Alessandra, anche lei le tocca che di cantarci quattro versi dell'inno. Sì, ma io canto l'inno di Mameli, perché io sono italiana. Vada. Allora vada. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Bellissima, intonatissima. Guardi quanto è più brava invece di Troisi, che era un po' stonata a Chione in Non ci resta che piangere. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, del municipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che si chiama di Roma e di Lagrio. Ha sentito Alessandra? Ha sentito? Assolutamente sì. Adesso mi faccia il parapam pam pam pam pam, che quello è fondamentale. Parapam, parapam. Bravissima. Senta, basta, ma quanto secondo lei quanti suoi concittadini si sentono prima comaschi e poi italiani? Ma non lo so, io, cioè, anche perché io effettivamente dico masca, sono comasca per Ius Soli. Fondamentalmente io sono il frutto dell'unità d'Italia, perché mio padre è di Napoli, mia mamma di Ancona, io sono nata a Como. Quindi praticamente ho toccato tutte e tre le parti d'Italia, perciò io mi sento prima italiana. Nord, centro e sud, chissà quanti ce n'è come lei. Sentiamo Giancarla da Milano, mentre mi arrivano dei messaggi che leggo. Ma di che cosa state parlando? Prendete una cartina del mondo di 200 anni fa, prendetene una di oggi e pensate a cosa sarà fra 200 anni. E Bossi e compagnia sono degli ebeti a raffoni, altro che Roma ladrona, Fornela. PS, anche la religione si dovrebbe fare fuori da scuola. E infine un altro messaggio, ma a scuola prima di dialetto non sarebbe il caso di imparare l'italiano, che non gode di ottima salute? Allora Giancarla, ci dica la sua. Ecco, io dicevo proprio questo. Io sono di Milano, nata a Milano, parlo ovviamente il milanese, parlo anche il dialetto brianzolo, che è il dialetto dei miei genitori, che sono nati in un paese a 14 chilometri da Milano e il loro dialetto è diversissimo. E vorrei sapere, nella scuola, che dialetto si deve insegnare? Io adesso mi trovo in Valle Imania, in villeggiatura. Quando la gente del posto parla il dialetto molto stretto, non capisco niente, eppure siamo sempre in Lombardia. E lei parla bene il dialetto, cioè lo capisce il suo? Sì. Ah, ecco. Quindi c'è una differenza così forte, vede, io non sono in grado di giudicare perché... Sì, ci sono delle differenze. Guardi, cioè addirittura che lei non capisce le parole? Che mi ha detto, tu sei una trasformista, perché a Milano parli un dialetto, a Varedo ne parli un altro. Io non me ne ero mai accorta. Mi faccia un esempio di differenza dialettale. Allora, diciamo, il ragazzo a Milano l'Elfieu, certo. In Brianza il Bagai. L'Elfieu. Come si dice in Brianza? Bagai. Bagai, ah, un'altra cosa proprio. Quindi come l'articolo si fa? Il, che a Milano si dice El e in Brianza si dice Ul. Ul. Ancora, ancora, continui. No, diventerebbe un discorso lungo. E invece volevo... Guardi che magari la sente qualche borgomastro e la mette in cattedra, perché si vede che già lei ha delle, delle no, qualità. No, oltretutto ho due figlie insegnanti. Quando in una classe ogni due mesi viene inserito un ragazzo straniero, è già tanto riuscire a far capire l'italiano, altro che il dialetto. Io sarei favorevole all'insegnamento del dialetto al di fuori dell'orario scolastico, magari anche nei locali della scuola, però bene, come anche materia noi su facoltativa... questo, anche noi su questo siamo d'accordo. Senta, grazie, grazie mille, e signora Giancarla. Cosa sì, dire, vada. A proposito dell'inno di Mameli, certo, il coro del Nabucco è stupendo, il coro dei Lombardi è stupendo, l'inno nazionale è un'altra cosa, allora è stupenda anche la marcia trionfale se vogliamo. Certo, ma non è il coro degli Zingari della Traviata. Certo. Non c'entrano, cioè, niente. L'inno deve essere l'inno, deve essere importante storicamente, non deve essere la melodia più bella, perché altrimenti anche la Germania probabilmente lo cambierebbe. Va bene, grazie, mi arriva un messaggio: si vergogni, mi fa vomitare la sua terronaggine. E vabbè, pazienza, che devo fare? Viva i terroni. E allora sentiamo Mario Morcellini. Buonasera, è il preside di Scienze della Comunicazione, quindi uno scienziato della comunicazione. Ci ha colpito quello che ha detto oggi parlando delle insorgenze, letteralmente delle proteste di coloro che ascendono verso l'alto, gli operai dell'INSE, eccetera. Buonasera Morcellini. Buonasera a tutti voi. Intanto lei si qualifichi etnicamente, come la dobbiamo immaginare? Un umbro accademicamente trapiantato a Roma con piena soddisfazione. Ah, e quindi lei come si definisce? Prima italiano o prima umbro? No, direi decisamente italiano. Bene, no, perché oggi stiamo facendo questo gioco. Ho sentito. L'inno, quale le piace come inno? Ma l'inno di Mameli è probabilmente esteticamente discutibile, ma il significato simbolico e quello che ha giocato nel cuore e nella testa di tantissimi italiani è ormai impressionante e stratificato. Trovo singolare che nessuno valuti il peso della storia e della tradizione, ma mi pare che però quello che è emerso dalla trasmissione sia più che esauriente. Aspetti un attimo, c'è un messaggio che dice: non chiamano solo dal sud, ma quelli del nord non li richiamate. Marina, non è vero, chiama adesso e ti mettiamo subito in diretta. Allora professore, mi ha molto colpito oggi, ho letto questa sua riflessione in una intervista. Secondo lei cambia il modo di protestare a partire dal successo dell'INPS, è così? Direi che è cambiato anche un po' prima, altrimenti non si sarebbe arrivati all'esperimento coraggioso e anche molto duro dal punto di vista esistenziale dell'INSE, perché poteva andar male, nessuno ha valutato questa negli esperimenti, ovviamente l'esito non è scontato. E cambia perché ci sono due variabili di fondo. La prima è che la crisi del sindacato, non tanto della sua forza oggettiva quanto della fiducia nei risultati dell'azione sindacale, costringono a inventarsi qualcosa di nuovo. Il secondo, che questa famosa vetrinizzazione sociale, cioè questa esistenza di tutti noi nel circuito dei media, costringe anche gli operai, che abbiamo sempre considerato banalmente la retrovia del cambiamento, a ripensare all'avanguardia, postmoderni. Sì. Senta, giorni fa abbiamo ospitato Gianluigi Paragone, un editorialista di Libero, che è molto critico, cioè dice: queste forme di esibizionismo contrattuale producono un imbarbarimento della società. Lei come risponde a questa argomentazione? Cioè, c'è il rischio che tutti vadano su un traliccio sopra il Colosseo? Dal punto di vista del buon senso, gli accecamenti della comunità. Pensiamo che questa storia, che non c'è più classe operaia, e poi dopo in tempi di crisi economica ci accorgiamo di un nuovo protagonismo. Due elementi mi sembrano infondati nel discorso di Paragone. Il primo è che l'esibizionismo in questa società è stato insegnato, messo in scena e messo al centro dell'attenzione dalla cultura di centrodestra. Non si capisce perché, se una volta lo utilizza operaio, diventa cattivo. Ne parli prima con Berlusconi e poi ne riparliamo. Il secondo elemento è ancora più importante. Quindi cioè, se uno se la deve prendere con gli operai, se la deve prendere anche con le veline, lei vuol dire? Soprattutto perché, ripeto, questa vetrinizzazione della società certamente ha molte ambiguità, però non è detto che non possa essere giocato in termini innovativi per aprire altre vertenze. Ora, io non sopravvaluto adesso l'importanza di questi esperimenti, ma mi domando se qualcuno dei media avrebbe mai notato una protesta tradizionale degli operai dell'INPS oppure di questi di Roma. E questo è sicuramente stato un assoluto silenzio. Sì, allora, sì, è vero. A questo punto, francamente, il risultato di costruire identità intorno alla comunicazione vale per tutti, a destra e a sinistra. Un'ultima cosa prima di salutarla, vetrinizzazione è una parola sua? È un bellissimo concetto inventato da uno studioso di pubblicità che si chiama Codeluppi, lui ovviamente lo usa in modo molto critico, io l'ho allargato alla politica e secondo me nella politica... Stiamo espandendo le barriere della lingua. Grazie professor Morcellini. Buona a presto. A il dialetto si impara al bar in una scuola, dice Gianni da Modena. Se c'è qualcosa di razzista sono gli inni nazionali, li abolirei tutti a partire dal loro uso nel mondo dello sport. Ma noi toscanacci che dialetto si parla? Dica la verità, non le sembra una bischerata tutta questa storia? Luca, mio omonimo da Grosseto, e allora consoliamoci col TG1. Confcommercio, calano prodotto interno lordo e consumi, ma i telefonini non conoscono crisi, la ripresa dal 2010. Ultimo giorno di campagna elettorale in Afghanistan, timori per la sicurezza, i talebani, taglieremo le dita a chi andrà a votare. Napoli, la giovane Roma e il figlio neonato sono stati investiti, lo stabilisce l'autopsia, ora è caccia al pirata della strada. Cosenza, dopo una violenta lite, una badante ucraina uccide l'anziano pensionato che assisteva e si toglie la vita. Trovata la nave russa scomparsa, in salvo i marinai, ma resta il mistero, dove era finita e cosa trasportava. Super Enalotto, stasera in palio quasi 136 milioni di euro, record europeo, tra poco in diretta al TG1 l'estrazione dei 6 numeri fortunati. E rieccoci in studio. Allora abbiamo sentito questa sventagliata di titoli e sentiamo allora anche quelli del concorrente, il TG5. A 3 giorni dalle elezioni i talebani distribuiscono volantini per impaurire la popolazione. Taglieremo le dita a chi andrà a votare. Per la Confcommercio, consumi e prodotto interno lordo in discesa per tutto il 2009, segno più dal 2010, ma è boom dei cellulari, in 7 anni più 189%. Alcol, droghe e musica sparata a tutto volume, sotto accusa i rave party, feste del delirio, dopo la morte di 2 giovani a Lecce in Molise. Primi rientri dopo il Ferragosto all'insegna del caldo, domani allarme rosso in 9 città, l'ondata di calore durerà fino a venerdì. Da 3 anni viveva su una sedia a rotelle perché ammalata di SLA. Dopo essersi immersa nelle piscine di Lourdes sarebbe guarita. Sono stata miracolata. Tra poco in diretta al TG5 l'estrazione dei numeri del Super Enalotto. 136 milioni il jackpot. I tedeschi tornano in Italia per tentare la fortuna. Ecco, erano le trombe ruggenti e il TG5. Questo è il nostro inno, il volo del Calabrone. Allora, visto che ormai si parla tanto anche di queste proteste, abbiamo deciso di sentire una persona particolare. Ma prima di sentirla, quest'altro inno a richiesta, molto bello, molto appropriato per la bandiera, per diventare la bandiera di questo paese, Aida di Rino Gaetano. La la la. E alala, Rino Gaetano contaminava tutto, il pop, la storia, le canzonette del ventennio, e componeva questo suo inno indimenticabile che è una delle grandi bandiere degli anni 70. Allora abbiamo al telefono, sono contento che l'abbiamo trovata perché ci ha incuriosito e appassionato la sua storia, Antonella, moglie di Giorgio, 33esimo anniversario di matrimonio festeggiato col marito arrampicato sul Colosseo. Buonasera. Ciao. Allora, come va? Provati, un po' stanchi. Sa che un opinionista di Libero, Gianluigi Paragone, ha detto a questi microfoni: ah, ma questi si divertono, e c'è un elemento di esibizionismo e in fondo è facile salire sopra un paranco, una gru o il Colosseo per protestare. Sì, e ci andasse lui? Questa è un'ottima risposta. Ci racconta la storia di suo marito, perché è arrivato a questo? Sì, mio marito è un vigilante, se come voi sapete, 33 anni di servizio, ha lavorato per questa azienda con onestà, con dedizione, ci credeva e ci ha creduto fino in fondo, ma evidentemente poi le cose sono andate diversamente. Da pubblici sono stati portati a privato con un contratto, non so come spiegare, un contratto veramente disonesto, perdita di scatti di anzianità, perdita di tutti i dati che loro avevano acquisito nel tempo. Gli hanno azzerato il curriculum? Tutto, prima. Assolutamente tutto. Dopo 33 anni di servizio è come se mio marito iniziasse a lavorare oggi. Ho capito. Non mi sembra giusto. Quindi a chi ha detto che noi giochiamo, per me dovrebbe vergognarsi. Vergognarsi veramente. C'è gente che gli mancano 10 giorni alla pensione, un mese alla pensione, un anno. Non è un ragionamento, assolutamente, che l'Italia deve comunque sia risalire, che l'Italia deve comunque sia, come le posso spiegare, deve riprendersi da questo disastro finanziario, sono d'accordo, ma sempre sulle nostre spalle? Sempre sulle spalle dei lavoratori? Chi ha rubato fino adesso, dove sono i soldi? Neanche più il TFR gli danno. Certo. L'abbiamo perso. Ma scherziamo? Mio marito sta giocando lassù? Senta, no. Avete dei figli? Ne abbiamo 3. Loro che cosa gli avete detto? Quello che sto dicendo a lei. Sono venuti a vedere il papà? Tutti i giorni. Quindi state a via dei Fori Imperiali? Dalla mattina alla sera insieme a me. Perché devono vedere, devono capire. Che cosa hanno detto? Semplicemente chi? Loro, quando gli avete spiegato cosa vi hanno detto? E sono preoccupati anche per il loro futuro. Molto preoccupati. Perché non capiscono, percepiscono che oggi non c'è più niente. Non ci sono più margini. E comunque sia, le istituzioni non ci sono. Ma suo marito scenderà se ci sarà una soluzione? O... Se c'è una soluzione onesta, è pronta a scendere, come no? Che scherziamo? Se no non scende? Non scendono. Quando come l'hanno deciso? Marito, ci sono altri 7 padri di famiglia, insomma, io parlo di... Quando mio, l'hanno di deciso? Marito. Quando le ha detto suo marito, salgo sopra il Colosseo? Ma mio marito veramente me l'ha detto già quando era salito. L'ha chiamata? Sì. E che le ha detto? Che per disperazione avevano deciso di fare questo gesto estremo. Perché in Italia oggi solo così puoi farti sentire, puoi farti valere. Perché come ti ripeto, le istituzioni non ci sono più. Non c'è più niente. Vivono nell'illegalità assoluta e sono quelli che non pagano mai. Ci siamo stancati, devono pagare. Ho capito molto bene e Che dire, è una sua testimonianza che ci fa riflettere, però c'è anche una nota positiva. Suo marito, da lassù, è riuscito a farle un regalo per i suoi 30 anni di matrimonio. Sì, questo, lo sapeva? Questo fa capire quanto tengono alla famiglia e non stanno su. Le ha regalato una rosa? Sono burattini, sì. Ma lei lo sapeva? No, assolutamente. Quindi le ha calato col paniere, le ha calato una rosa? Sì. Allora le dedichiamo questa canzone di Vinicio Capossela che parla appunto di una rosa d'amore come la sua. Grazie, grazie, grazie mille per questa testimonianza, grazie Antonella. Auguri. Grazie. Grazie. Con una rosa hai detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. E io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te. Bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano. Vinicio Capossela, cantautore italiano, talentuoso, beffardo, ironico, ma anche molto molto romantico, sulla scia della tradizione dei Buscaglione e dei grandi romantici italiani. Sono un sardo che la pensa come Gobbo, la mia nazione è la Sardegna, l'Italia è uno Stato, questo è il mio orizzonte concettuale e identitario. Siamo contenti per te, io invece sono un italiano nato in Sardegna che ama la bandiera dei Quattro Mori e anche la bandiera dei Quattro Mori insieme al tricolore. Sogno giornali in cui una ditta di 500 persone che chiude abbia più spazio di una dichiarazione di Calderoli. Questo però è un sogno impossibile. Sono un veronese che ha avuto l'avventura di vivere in ben quattro zone diverse della provincia, ognuna con il dialetto proprio. Ora vivo in Valpolicella con tre vallate che hanno dialetti diversi. Ci sono anche differenze importanti fra i paesi. Maurizio, grazie, mi ha commosso e mentre ero qui ha chiamato la mia professoressa di greco, la professoressa Conticello, e chi ha passato le sue interrogazioni sa che cosa vuol dire fare l'unità d'Italia. Era nata e cresciuta in Sicilia, ma la sua capacità di evocare i classici immensa e senza confini, come molti sono così i professori italiani, sono quelli veramente, su questo sono d'accordo con Merlo, che hanno fatto unita l'Italia. Allora sentiamo, abbiamo degli ascoltatori in linea, andiamo a sentire che cosa dirci Giuseppe da Verona. Buonasera. Buonasera. Buonasera, io volevo intervenire poco fa, intanto faccio gli auguri alla signora poveretta, spero che il marito da sopra il Colosseo scenda e abbia tutto quello che deve avere. Bella testimonianza, vero? Io mi riferivo soprattutto ai discorsi fatti da un sindaco, un vice sindaco di Treviso. Io sono di Verona, liceo classico, tanti anni fa, i miei antichi parenti o cugini di mio nonno sono stati professori di Giovanni Pascoli, quindi non capisco. Caspita. Assolutamente, vivendo a Verona adesso e sapendo quanti dialetti ci sono all'intorno di Verona, che tutti diversi l'uno dall'altro, come si possa dire e parlare dell'insegnamento del dialetto? Non dà niente il dialetto. Il dialetto non dà niente. E lo sapevano bene i romani cosa era che univa un popolo. Un popolo viene unito dalla lingua soprattutto. Quindi se noi vogliamo fare un federalismo fiscale è un conto. E va bene, posso comprendere le ragioni politiche e tutto, ma le boutade di Bossi e compagni mi fanno schifo. Pur non essendo di sinistra, pur avendo votato anche a favore del... indirettamente a favore anche di Bossi. Non bene, grazie. opinione forte e chiara da un signore che abita nel nord, che ha radici antiche e anche un blasone prestigioso da quello che ci ha raccontato. Grazie, veniamo a una sintesi inno d'Italia in dialetto comasco, Pora Italia di David van der Fros. Saluti da Alberto. Le chieda, penso che si riferisse alla moglie di Giorgio salito sul Colosseo, se il marito aveva la tessera sindacale e che fine ha fatto la sua fiducia nei sindacati. Marco, ma che vuol dire? Non lo so, non è una domanda importante, o almeno non è quella che verrebbe in mente a me. Allora, avevamo evocato un nostro ascoltatore da Milano. Luca, pronto e in linea? Non c'è. Allora, Ilaria da Firenze. Sì, pronto, buonasera e grazie. Grazie a lei. Io chiamavo per esprimere il mio pensiero sulla questione del dialetto. Al di là del fatto che sia uno scambio, se è uno scambio con i soldi dati al sud, mi sembra uno scambio venuto male, perché io, anziché il dialetto, che pure non parlo ma che mi piace molto in alcune sue espressioni, ma ritengo che a scuola bisognerebbe imparare molto bene l'inglese e poi una delle lingue del BRIC, cioè o il cinese o il russo o l'indiano o il portoghese, il brasiliano, quindi il portoghese, perché se noi parliamo il dialetto ci creiamo l'opportunità di crescere anche da un punto di vista economico. E poi, se vogliamo tornare alle nostre radici, sarebbe molto meglio e molto più utile studiare il latino o il greco, che ci aprirebbe anche la mente, perché insieme alla lingua c'è un portato culturale di profondità di pensiero che sta alle origini veramente della nostra cultura. Questo è il mio pensiero. È un'ottima testimonianza e sentiamo Chiara dalla provincia di Padova. Buonasera. Buonasera. Io vorrei parlare appunto del dialetto. Di questo stiamo parlando. Di contadini. Bene. Io ho vissuto con le mucche, i maiali, i polli, le galline, le vigne, il vino e tutti questi ritmi, con le capre che passavano per l'argine. Mio padre ospitava i pastori che poi dormivano nella stalla con le mucche e mangiavano con noi. Abbiamo sempre parlato in dialetto. All'elementare avevo un insegnante, io ho 36 anni, di Agrigento. È stata un'esperienza stupenda, perché lui non era siciliano, era il maestro. Quindi, oh, come si chiamava? Si chiamava Gerlando Argento di Agrigento. Per fare rima, sembra una storia, veramente sembra un Amélie italiano. Lei ci ha fatto quasi commuovere con questo frammento di romanzo padano. Volevo dire che ho un fidanzato di Lecce, esattamente di Tricase. Addirittura, ma come è potuto accadere? Se la sente Bossi, come le è venuto di innamorarsi di un leccese? Non c'era lì un bel ragazzone del nord? Sì, ma io l'ho colpito perché sono molto meridionale, mi ha detto. Oh mamma mia. Sono proprio molto affettuosa, calorosa, e andremo a vivere a Trento. Ah, ho capito. Bene, allora. Quindi, secondo me, lui ha imparato il dialetto con me, vivendo con me e la mia famiglia. Io l'ho imparato dai miei genitori. I figli dovrebbero impararlo dai genitori e dai nonni. È una fortuna che ci siano gli insegnanti, qualsiasi sia la loro provenienza, e che ci parli l'italiano, che è la lingua. Grazie mille, andiamo in diretta con il TG1 per il Sun e per il Nalotto. Ci rivolgiamo ai tedeschi, agli abruzzesi, agli inglesi che sono venuti a giocare. 57, il primo numero che è uscito. 10, il secondo numero che è uscito. 4, il terzo numero che vediamo. E ricordiamo che questo è un jackpot decisamente milionario, il più alto d'Italia, il più alto d'Europa e secondo soltanto al Powerball americano di 172. Ecco, è arrivato un altro numero, ve lo comunichiamo in diretta, è un 28. Gloria l'ha visto molto prima della nostra. Di 172,8 milioni. Ci sono le palline euro che ballano. Adesso stiamo assistendo all'estrazione 27. Dell'ennesimo numero, che è il 27. Ah, ma qui dormono la Rai. Noi vediamo un quarto d'ora prima sto numero. Allora 57, 10, 4, 28, 27, guardate com'è improbabile questa combinazione. E adesso 34! Dai, svegliati! Mamma mia, sto TG1. Poi dicono che 135,9 milioni di euro. Allora 56, ecco 10, 4, 57, 28, 27, 4, 34. 28, 27, 34. Inoltre, i 6 mesi di assenza, gli italiani hanno speso quasi 1 miliardo e 700 milioni di euro. Lo Stato ha incassato 840. Allora, via, è finito il TG1 e andiamo a cose più serie. Giustino Parisse, nostro collega del centro, vittima 2 volte del terremoto. Grazie per essere con noi al telefono oggi. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, Giustino, ci interessa veramente molto il tuo parere di cronista, perché abbiamo sentito delle voci, molto spesso leggende metropolitane sui campi, e vogliamo sapere come stanno veramente le cose da uno che è lì. Allora, come vanno le cose in Abruzzo? Intanto è vero che in certi campi non si può bere vino o consumare caffè? Sono leggende metropolitane o anche ha un fondamento questo? Sì. Allora, io nel campo che frequento, diciamo, quasi tutti i giorni, che è il campo della Tendopoli di Olna, si beve vino e si beve il caffè. Certo, meno male. Evidentemente ci saranno, come dire, le esagerazioni verranno represse come un po' in tutte le parti. Invece, qual è la tua analisi sulla ricostruzione, su cosa sta accadendo e su come sta accadendo? Allora, guarda, qui c'è, ci sono due questioni. C'è un problema che riguarda la ricostruzione della città e del centro storico, e su questo siamo ancora molto lontani, nel senso che L'Aquila è una città chiusa, una città fantasma, una città dove non c'è nessuno, e non c'è ancora un'idea, un progetto per la ricostruzione. Naturalmente la protezione civile, il governo assicura che ci saranno i soldi, noi fino a prova contraria ci crediamo, però li vorremmo vedere, e va bene, speriamo di vederli prima possibile. Oggi c'è un'altra questione, che è quella di ricostruire. In che senso dici che non c'è il progetto? Sì, non c'è il progetto perché il centro storico dell'Aquila naturalmente non può essere ricostruito come una casa qualsiasi. Una casa qualsiasi uno la batte oppure la risistema. Certo. Il centro storico dell'Aquila è fatto di chiese, di monumenti, quindi ci serve un'idea di quello che si vuole fare dell'Aquila. Se si vuole fare una città dove ci devono tornare le persone, se deve essere una città museo. Comunque, ecco, avere un quadro, un'idea che per adesso non c'è, nel senso che non ce l'ha il comune, non ce l'ha la protezione civile, ma non è suo compito averlo, e ci sarà da discutere, da organizzare incontri, da valutare anche con architetti internazionali, magari o anche nazionali, perché no, che cosa vogliamo fare di questa città. Per adesso le idee non sono chiarissime. Poi, per quanto riguarda il resto, oggi c'è un'emergenza, che non è più quella, diciamo, del post-terremoto. L'emergenza di oggi è ridare un tetto che non sia una tenda. Prima che arrivi il generale inverno. Esatto, questo è fondamentale. E ora, su questo che cosa si sta facendo? Si sta facendo un progetto che si chiama Progetto Case, che dovrebbe assicurare un tetto a 12, 13 mila, 15 mila persone. Su quasi 40? Su 50 mila sfollati. 50 mila. Allora, poi naturalmente ci sono quelli che dovrebbero rientrare nelle cosiddette case A e B, perché all'Aquila adesso le case si chiamano A, B, C, D, insomma a seconda, a seconda del grado di danneggiamento. A e B sono quelli dei danni minori, però anche su questo ci sono adesso, diciamo, dei ritardi, perché i lavori per le case A e B, che sono quelle con i danni minori, dovevano partire, diciamo, già adesso, per far sì che fra un mese e mezzo si potesse tornare. Su questo ci sono ritardi burocratici, intoppi. Perché non sono partiti? Qual è la difficoltà più grande? Cioè, chi è che sta sabotando questa ricostruzione? Ma guarda, secondo me sabotando non lo sta facendo nessuno. Il problema è che sono migliaia e migliaia di pratiche che devono arrivare in comune, devono essere prese, valutate, autorizzate, e quindi c'è il ritardo è questo, perché poi il comune chiaramente non ha gli strumenti e soprattutto il personale per far fronte a questo fiume di pratiche, tanto è vero che fra qualche giorno arriveranno dei tecnici della Fintecna, che è una società controllata dal Ministero del Tesoro, con 30-40 persone che dovrebbe occuparsi di questo. E non potevano farlo prima? Beh, evidentemente avevano fatto male i conti, o comunque a fronte dell'emergenza, o comunque diciamo che qui noi avevamo già un comune dell'Aquila che già prima del terremoto aveva i suoi problemi. Poi arriva una cosa come il terremoto. Arriva come il terremoto, quindi parecchi dipendenti non sono tornati subito al lavoro. Non c'erano proprio le sedi. Il Palazzo Margherita, che è la sede del comune dell'Aquila, è crollato, insomma, comunque inagibile. È messo talmente male che non ci si può tornare dentro. E così quasi tutte le sedi del comune. Il comune oggi è la Guardia di Finanza e altre sedi che stanno cercando. Ma quindi secondo le tue previsioni non si arriverà ad avere queste case di A e B? Io credo che non tutti a novembre avranno un tetto, o meglio, quelli che non lo avranno dovranno arrangiarsi o ancora negli alberghi della Costa della Nana, oppure in strutture provvisorie che potrebbero essere dei container, anche se la Protezione Civile ha ribadito anche qualche giorno fa che non vogliono container. Che non vogliono assolutamente container. La gente cosa vuole? La gente vuole le case. Vuole delle case che siano dignitose, ma soprattutto la gente vorrebbe la certezza che entro 2, 3, 4, 5 anni potrà ricostruire una casa propria. Secondo me quello che vuole veramente la gente è quello, perché poi arrangiarsi per 2 o 3 anni o nelle case del progetto case o nelle case di legno, come sarà il caso mio. Io sto a Onna, che è il paesino più massacrato dal terremoto. Ci stanno realizzando un villaggio di case, a metà settembre sarà pronto, io avrò la mia bella casetta, però io ci voglio stare poco in quella bella casetta, anche se è bella, anche perché poi bella è bella, ma sono comunque 40 metri quadrati e comunque non è certo quello che io rivoglio, nel senso io rivoglio casa mia, costruita meglio naturalmente, e la rivolgerei nel tempo più breve possibile. Siamo ovviamente tutti d'accordo con te, e com'è il morale nei campi? Nei campi in questo momento non è buonissimo, c'è molto nervosismo, c'è molta incertezza, c'è molta attesa, naturalmente il clima non ci aiuta, è vero che stiamo in estate e quindi teoricamente si sta bene, ma sotto le tende vi assicuro non si sta si muore di caldo. Questa è una leggenda, chi dice il contrario dice una cosa che non c'è, che non esiste, sotto le tende si sta male, soprattutto per le persone anziane, cioè chi deve, perché che so, la persona che lavora esce la mattina, torna il pomeriggio, la sera, in qualche modo chi è anziano sta sotto le tende, i bambini come stanno in una sotto sauna. Le tende, ci sono mille e mille problemi, le tende ci si può stare un mese, due, tre, poi non ci si può stare più, quindi l'obiettivo adesso è uscire prima possibile, qualsiasi sia la soluzione. Bene. Eccoci di nuovo a ronzare, Massimo da Rimini, che cosa hai da dirci? Salve, buonasera dottore, salve a lei e tutti gli ascoltatori. Buonasera. No, io praticamente mi volevo ricollegare al discorso che faceva prima il vice sindaco della provincia di Treviso, se non sbaglio. No, era il sindaco, proprio il sindaco di Treviso, Giampaolo Gomma. Il sindaco. Io mi sento sinceramente profondamente offeso da quello che lui ha detto, che praticamente tutti gli studenti del meridione hanno questa facilità ad avere dei voti alti e cosa. Esatto. Cosa che sinceramente è completamente inesatta. Parlo di me personalmente che praticamente per avere voti buoni a scuola veramente ho sgobbato tantissimo. Dove, che scuola andava? Dove? Che scuola andava? Non ho capito. In che scuola andava, in che città, come si chiamava la scuola? Io sono napoletano, vivo a Rimini e frequentavo l'istituto industriale come perito meccanico. Non le hanno regalato nulla? Non mi hanno assolutamente regalato nulla, anzi mi hanno fatto morire praticamente. E volevo dire questo, io sono autista di bus turistici e spesso e volentieri sono nel Veneto, a Venezia specialmente, e quello che vedo è che constato io personalmente che l'80% delle persone che lavorano lì nel Veneto sono tutti meridionali, tutte persone onorabilissime praticamente che svolgono benissimo il loro lavoro e che purtroppo si sono dovute spostare verso il nord perché al sud di queste realtà lavorative ce ne sono ben poche e quindi come me personalmente che sono qui a Rimini devo dire anche a malincuore, perché amo tanto la mia città. Gente del sud che lavorare. Fa fare ricco il nord, mi sembra un ottimo spunto e esatto. Grazie per questa esatto. testimonianza. Massimo da Rimini, mi arrivano dei messaggi: l'Italia è un gruppo di piccoli stati uniti dallo psicopatico Garibaldi per arricchire Savoia, ma gli italiani del nord vorrebbero la Jugoslavia, caro Telese. Maurizio, ma non sai quello che dici, mandateci un attimo a Sarajevo, andate a vedere i ponti, le case sventrate, andate a vedere le guerre dei piccoli miserabili accattoni delle piccole patrie e andate a vedere questi risultati prima di parlare, altrimenti fate ridere. Allora abbiamo Michele Cuozzo, sindaco del comune di Valva, che abbiamo chiamato per una notizia di cronaca che ci ha colpito. Michele ha deciso di premiare come attrice Noemi per il suo celebre ormai primo lungometraggio Scacco Matto, è così? Sì, buonasera. Buonasera. È così fino ad un certo punto. Noi abbiamo organizzato una manifestazione, un film festival dove la parte principale è dedicata al regista Ferrara con i suoi film Giovanni Falcone e Aldo Moro. Nell'ambito di questa rassegna mi è stato, come dire, consigliato, sottoposto anche un premio da dare a Noemi per il personaggio Noemi, per il suo cortometraggio, per una serie di cose che ha fatto. Ho accettato e nulla, mi auguro che sarà nostra ospite in questa manifestazione del 24, come mi hanno detto che ci sarà, e verrà a ritirare questo premio. Quindi lei praticamente ha fatto una geniale operazione di marketing, l'impegno dell'antimafia più Noemi Letizia, così noi siamo costretti a parlare di voi. Non lo so, lo sta dicendo lei. Lei mi ride, mi dica la verità. Capisco. Ma come non ne capisci? Ormai questi sindaci stanno inventando di tutti i colori. Quante persone hanno parlato di voi dopo questa cosa di Noemi? Io questa sera sto a telefono, in buona sostanza da 2 ore mi stanno chiamando tutte le parti. Ma di che partito è, sindaco? Io sono di Alleanza Nazionale, adesso non c'è più, sono del PDL. Ah, vede, quindi praticamente una geniale operazione di marketing sul territorio. Bene, allora le facciamo i complimenti, perché sicuramente i sindaci in questo momento si inventano tante cose che riescono a cambiare anche la storia dei loro comuni. Com'è il suo comune? Io non posso che dire quello che penso, che è un bellissimo comune, è un comune di frontiera del Salernitano, devastato dal terremoto dell'80, ricostruito in parte. All'interno di questo comune, ricco di storia, di tradizione, anche se un piccolo comune, ci sta un grosso monumento di attrazione turistica, che è una villa settecentesca con un castello di proprietà del sovrano militare Ordine di Malta, piena di statue. E quindi c'è molta storia. Tanta bellezza, tanta storia. Ma lei si sente prima italiano o prima... valvano, non so come valvese, si definisce, valvese. No, sono italiano perché l'Italia è una grande nazione, una grande patria, che è grande proprio perché ha tante piccole realtà che fanno grande questo paese. E quando sente Bossi che vuole cambiare l'inno, cosa pensa? Penso che l'inno sia quello di Mameli, sia quello dell'Italia, che appartiene a tutta l'Italia. Adesso ce ne deve cantare 4 versi per far vedere che è un buon sindaco, sì. L'inno lo canto sempre. Conosco tutte le parole. Lo conosco e per davvero è una cosa che a me fa commuovere, è quella strofa che accomuna tutta l'Italia. Così la canti. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. No, questo è troppo facile. Del principio si cinta la testa. Che più devo dire? Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Fratelli d'Italia, sedestra, Fratelli d'Italia. Si è impappinato, porca miseria. Non che mi sono impappinato. No. Io l'inno nazionale lo canto sempre, lo canto ogni volta. Bene. Per davvero c'è una mia intervista su Facebook, penso che l'inno nazionale non debba essere cambiato. L'Italia ha bisogno anche di riconoscersi in queste cose, indipendentemente dalla frase che viene prima o dalla frase che viene dopo. Grazie, allora non sentiamo... possiamo... L'Italia è grande proprio perché è unita ed una. Bene, allora sentiamo la nazionale di calcio come canta l'inno, e un reperto archeologico che vogliamo far sentire a tutti. È una nazionale un po' stonata, ma molto epica. Allora sentiamo Paola da Verona. Buonasera. Si è commossa sentendo l'inno? Sulla questione dei dialetti. Io sono docente di italiano per gli stranieri e giornalista. Ecco, io credo che ogni paese abbia una lingua ufficiale e mi domando il senso che può avere fare apprendere a dei bambini dei dialetti quando loro devono poi apprendere l'inglese o lo spagnolo o il portoghese quando si recano negli altri paesi. Allora, chi viene nel nostro paese cosa deve imparare? 10, 1000, 100 dialetti? E questo è l'assurdità, perché il dialetto impoverisce nella questione della comunicazione, riduce gli spazi proprio anche mentali. Questa è la mia esperienza di docente. E poi volevo intervenire su quella bellissima testimonianza di quella signora che ha il marito sul Colosseo. Ecco, volevo darle la mia solidarietà e penso la solidarietà di tanti italiani, perché dire che quella gente sta lassù a divertirsi è veramente una cosa vergognosa. Grazie mille, signora. Arrivano dei messaggi, alcuni sinceramente non so neanche come commentarli. Abbiamo avuto questa corrispondenza molto bella, mi pare molto pacata, di Giustino Parisse, che è un collega del centro che ha perso due figli in quel terremoto, e arriva un messaggio che dice: voi aquilani la dovete finire rompere i coglioni e piangervi addosso, noi in Friuli abbiamo aspettato molto più di quello che dovrete aspettare voi, non stiamo certo scassando alla radio come state facendo voi. Io non so che cosa gli dice il cervello a uno per mandare un messaggio così. Se avete coraggio, chiamate per dire queste vostre amenità. Ernesto da Roma. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, ascolti dottore, niente, io in sintesi, anche perché mi si è fatta l'ora di cena, volevo dirle che al di là, per quanto riguarda la Lega, le analisi politiche già fatte da gente molto più competente e autorevole di me, cioè che trattasi di una sparata ferragostana di Bossi per parlare alla sua gente, a maggior ragione quest'anno che ci sono le regionali a ottobre, al di là di questo esistono delle ragioni, ma direi quasi antropologiche, culturali, storiche, psicosociali, per pensare che questo antimeridionalismo è frutto di un complesso di inferiorità del nord verso il sud. Addirittura, e quale sarebbe il complesso di inferiorità? Le spiego subito, guardi, in due parole. Ci invidiano la nostra fantasia, la nostra creatività, il nostro clima, il nostro mare, il nostro sole, le nostre donne. Anche le donne. Beh, anche questo donne. C'è un fondamento storico, Ernesto, perché Emanuela Marrone, la moglie di Umberto Bossi, è siciliana. Addirittura questa era una cosa che è nelle biografie del senatore. Comunque è una bella teoria anche quella di Ernesto. Sentiamo Angela da Bergamo. Sì, buonasera a tutti. Sono sicuramente sconcertata da queste iniziative a favore del dialetto, perché ho insegnato per 30 anni proprio nella Bergamasca, alcuni paesi vicini, poi in Città Alta, e ho notato sempre la difficoltà dei bambini che avevano i genitori che parlavano in dialetto ad agganciarsi alla realtà dell'italiano, cioè avevano difficoltà sia nel parlare, nella scioltezza della comunicazione, sia nel comprendere i testi, e poi i loro testi erano semplici, elementari. Io insegnavo nelle medie e sono d'accordo nella conoscenza della cultura locale. Noi abbiamo portato i nostri alunni a visitare le torbiere del Sebino, a vedere la produzione del Branzi a Branzi, le cave di Ardesia, una cascina con tutti gli odori impossibili immaginabili, e le risorgive per la produzione, per le marcite, e tante altre cose. Però il dialetto no, assolutamente, è una follia. E le dirò di più, secondo me sarebbe un emarginare i fanatici della Lega dai ricchi che potrebbero scegliere le scuole dove il dialetto non è previsto. mille per questo, grazie mille per questo intervento. Grazie per questo intervento. Mi arriva un messaggio da Friulano: mi scuso per le parole del mio scorregionale, un neologismo con tutti gli abruzzesi. Paolo, io penso che la ragione sia da entrambe le parti, come il torto Walter da Trento. E beh, ma così è troppo facile. E ho 53 anni e l'inno l'ho imparato sui testi e le elementari. Oggi su quali testi scolastici troviamo l'inno I Mameli? Fiorenzo da Bergamo. E Telese, è un rimprovero, non è stringiamoci a corte, ma stringiamoci a corte, che è un po' diverso. Sì, ha ragione, sicuramente ha ragione questo nostro ascoltatore, ma io volevo dire stringiamoci a corte. Allora, Angela da Bergamo, l'abbiamo sentita, Carlo D'Asti. Pronto? Pronto? Sì. Pronto, mi sente? Non so se vede. Forte e chiaro. Pronto? Sì, sì, la sento. Allora, innanzitutto... Prego. Vada. Pronto? Parli, pronto? La sentiamo. Ecco, benissimo. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Non sentiamo assolutamente la mancanza del suo... di quello che lei sostituisce, anzi. Siamo in molti a preferire lei. Lo so che la mettiamo in difficoltà, come l'ha già detto qualche volta. No, ma non sono in difficoltà. Io preferisco Cruciani, però vada. No, io preferisco Telese, invece. Una piccola notazione che forse pochi sanno. Io mi interesso abbastanza di storia e devo dire che di quelli vittime che hanno tra l'altro fatto in gran parte dell'Italia, oltre 50 erano bergamaschi. Quindi mi sembra un po' strano che la Lega, che ha forti radici nel bergamasco, dimentichi queste cose. Prima cosa. Seconda cosa, io appartengo a quegli italiani che quando vedono il tricolore, l'inno nazionale, ho fatto il militare, ho fatto l'ufficiale, vengono i brividi. Per cui penso che sia assolutamente una follia abolire il nostro bene amato inno nazionale. Anche se qualcuno, questa era stata una polemica di qualche tempo fa, aveva detto che era un po' bruttino, un po' superato, un po' commerciale, assomigliava più alla marcetta che non, d'altra parte prima c'era la marcia reale, quindi mi sembra fosse poi molto meglio tutto sommato. E da ultimo, però, tutto sommato, i dialetti sono importanti. Io sono piemontese, però mia mamma era di L'Aquila, quindi insomma anch'io sono un po' seconda generazione. Devo dire che l'importanza del dialetto comunque è riconosciuto da molti come così mantenere un ancoraggio, ancora un'ancora alle tradizioni locali, eccetera. Anch'io però sono contrario all'uso obbligatorio, cioè all'insegnamento obbligatorio del dialetto. Grazie Carlo per questa testimonianza. Intanto è arrivato un messaggio che mi fa molto piacere, non era facile. Mi voglio scusare per quello che ho scritto non sapendo della morte dei figli del collega Giustino Parisse. Grazie mille, ve lo voglio scrivere di cuore, scusatemi Frank. E allora di fronte a questo, di fronte a un uomo che ha il coraggio di scusarsi per un errore, noi chiudiamo questa puntata come sempre con il nostro nuovo inno, l'inno della zanzara, che poi è Gabber. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente. Allora la zanzara finisce qui. La possente redazione che ha reso possibile questo programma va citata nome per nome: Gloria Guerrera, Antonella Migliaccio e Super Sara Sprafico. Secondo me questo Super se l'è messo lei. La regia Valeria Bernardi e Alessandro Chiappini. Grazie a tutti. A domani.